Sì, buongiorno da Pechino, il conto alla rovescia per il momento più atteso è agli sgoccioli, saranno le 20.08 locali di oggi, 8 agosto 2008, il momento esatto in cui la cerimonia di inaugurazione delle 29esime Olimpiadi dell'era moderna prenderà il via e cominceranno quindi le Olimpiadi. La città è chiaramente in fermento tra misure di sicurezza sempre più stringenti, sono stati chiusi i principali accessi intorno allo stadio, cioè non ai media accreditati, ma anche in un clima di festa perché la Cina sceglie questo momento come il momento in cui si presenta al mondo la cerimonia d'apertura di qualsiasi cosa. È nella cultura cinese il momento più importante, quello in cui viene definito il destino di un'iniziativa, di un'impresa, figurarsi di un'Olimpiade. E quindi la cerimonia di questa sera allo Stadio del Nido è stata pensata per stupire il mondo. Ci si chiede in queste ore come cambierà questo paese dopo le Olimpiadi. Ieri ha provato ad anticipare alcune conclusioni il presidente del CIO Jacques Rogge. I think they will mean a lot. They will mean a lot in on one hand for the rest of the world. Il mondo imparerà a conoscere la Cina e la Cina probabilmente si aprirà gradualmente al mondo. Per molte persone questo paese è ancora misterioso. And they will see. Ma grazie ai giochi il mondo imparerà a conoscere la tradizione di questo paese e penso che questo cambierà la percezione della Cina nel mondo. Ci sono temi che sono considerati critici dal mondo occidentale, ma penso che il faro che i giochi olimpici puntano sulla Cina aiuteranno il mondo a capire meglio la Cina e forse anche la Cina potrà capire meglio il mondo. È qualcosa che succederà oggi? Non lo so. È qualcosa che succederà dopo la cerimonia d'apertura? Io penso che questo sia qualcosa che andrà ben oltre la chiusura dei giochi. Altro tema caldo di queste Olimpiadi sarà certamente quello della lotta al doping. Mi aspetto 30-40 casi di positività, ha detto Rogge, dicendosi comunque soddisfatto dei passi in avanti fatti nell'ultimo quadriennio nella lotta contro l'uso di sostanze proibite nello sport. E proprio su questo tema è intervenuto John Fele, il presidente della WADA, la World Anti-Doping Agency, che ha fatto il punto sulla lotta contro il doping in vista proprio dei giochi di Pechino. You may be aware that WADA has worked closely with the Chinese government. Sicuramente siete al corrente che la WADA ha collaborato strettamente con il governo cinese e l'Agenzia Cinese Antidoping negli ultimi anni, per essere sicuri che siano perfettamente consapevoli di quello che è necessario per implementare un effettivo programma antidoping per questi giochi e più in generale per tutta la Cina. WADA ha fatto diverse visite ufficiali a Pechino negli ultimi anni e siamo orgogliosi di verificare il rapido progresso nella creazione di un programma antidoping indipendente e per la creazione di un laboratorio modello. Da Atene a Pechino la strada è stata costellata di molti successi nella lotta contro il doping. Sarebbe comunque da ingenui pensare di non incontrare casi di doping, ma penso che possiamo essere sicuri che con tutti i progressi fatti sarà facile individuare gli atleti non puliti. I believe that we can be sure that with all the progress of these past four years, the cheats stand a greater chance of being caught. Ma quella di stasera sarà soprattutto, vuole essere, anche se tra ingenti misure di sicurezza, la grande festa della Cina e del mondo che si prepara ai giochi. L'Italia sfiderà per 191esima tra le nazioni in pista, il portabandiera sarà Antonio Rossi, canoista, campione alla quinta Olimpiade. Lo abbiamo intervistato proprio alla vigilia di questo momento così importante nella sua carriera e nella sua vita d'atleta. Sentiamolo. Ma la sensazione, insomma, è buona. Finalmente siamo arrivati all'8 agosto, sfileremo per 191esima, quindi ci sarà un po' di attesa ora che partirà da quando entra la Grecia, però insomma penso che entrerò col tricolore, insomma, sarà veramente uno dei più bei ricordi che mi porterò in queste Olimpiadi che ho fatto. Queste polemiche politiche rimbalzate da Roma, te che sei il portabandiera, che effetto hanno fatto? Ma un po' me l'aspettavo, se devo essere sincero, anche se rimango sempre della mia opinione, che è giusto parlarne prima e giusto soprattutto parlarne dopo quando si tornerà, per non fare cadere nel dimenticatoio l'argomento, ma da quando iniziano i giochi gli atleti devono giocare. Massima libertà di espressione comunque per voi, ribadita anche ieri dal presidente Petrucci. Sì, sì, questo è ovvio, c'è un articolo dell'articolo 51 della Carta Olimpica che insomma, ma c'è sempre stata, che dà un po' la... che regola un po' questi argomenti, però insomma lo stesso CEO ha sempre detto che giudicherà col buon senso, insomma, quindi credo che ci sia modo e modo di dimostrare o dire le cose. Portare la bandiera è come vincere una medaglia, a chi la dedichi? Ma guarda, penso che la devo dedicare a tante persone, se devo essere sincero. È una grandissima soddisfazione per me, ma è una grandissima soddisfazione anche per le Fiamme Gialle, che è la mia società, insomma, che ha tantissimi atleti forti in tanti sport, insomma, e anche un riconoscimento alla canoa, penso che il fatto che porti la canoa, quindi penso che tra Fiamme Gialle e canoisti c'è veramente tante persone che saranno con me a portare la bandiera. Sugli spalti dello stadio del Nido, oltre ai 90.000 spettatori attesi, anche 80 capi di Stato, tra cui il presidente americano Bush, quello francese Sarkozy, che ha consegnato alle autorità cinesi una lista di dissidenti, di detenuti per motivi politici, con la richiesta che ne sia tutelata la sorte e quindi ne vengano rispettati i diritti. Poi tra questi, tra i vari capi di Stato, anche l'israeliano Simon Peres, a rappresentare l'Italia il ministro degli esteri Frattini e il sottosegretario allo sport Crimi. Proprio Frattini ieri ha voluto chiudere definitivamente la polemica sull'eventuale ipotesi di boicottaggio della cerimonia d'apertura che era rimbalzata da Roma in questi giorni. Ieri Frattini ha visitato proprio la delegazione azzurra e oggi sarà appunto sugli spalti dello stadio olimpico di Pechino. Sentiamo il ministro degli esteri. Sono grandi temi che noi affrontiamo sempre con la nostra parte cinese, con i nostri interlocutori, e lo facciamo nel dialogo politico. Oggi sono i giochi, oggi bisogna giocare, competere e se possibile vincere. Io credo che sia stato fatto qualche passo avanti. La cosa più importante è che dopo queste Olimpiadi la Cina non sarà più la stessa. Io sono fiducioso che i passi avanti piccoli potranno diventare passi avanti grandi e che soprattutto non ci saranno passi indietro. Da quel momento scatterà il dovere della politica e a quel punto torneranno in campo i ministri degli esteri. Ora lasciamo gli atleti. Speriamo veramente che i protagonisti siano loro, i grandi campioni, le stelle più attese, coloro che entreranno nell'albo d'oro e che conseguentemente scriveranno il proprio nome nella storia di Olimpia. Sentiamo allora quali potranno essere i grandi protagonisti di Pechino 2008. Dopo il sinistro di ieri si può anche sperare, forse sognare, che pure il nanetto Giovinco diventi una stella di Pechino. Perfino più di Messi, ieri a segno, e Ronaldinho, ieri nell'ombra, ma entrambi vincitori. La legge di Olimpia però vuole che le stelle vere incastonate nei cinque cerchi non siano quelle del pallone. Allora si va a cercare altrove i fenomeni, certamente sulla pista di atletica, dove tra Bolt, Tyson e Powell, eterno piazzato, rischiamo di vedere i 100 più veloci di sempre, speriamo magari anche puliti. Poi su quella pista, distratti dalla bellissima Isinbayeva, conteremmo di trovare anche il nostro Andy Howie. In piscina sarà ovviamente Michael Phelps il pesce più grosso, ma noi tra Magnini, Pellegrini e Filippi non scherziamo. Così come sul circuito del ciclismo, dove Bettini porta l'oro di Atene. Il tennis è roba per altri, tra Federer, Nadal e Sharapova, anche se, senza il profumo dei dollari, la sorpresa non è da escludere. Per noi si riempie di tristezza il parquet del basket, dove non possiamo andare a difendere l'argento, dove gli Stati Uniti spalmano al solito stelle a piene mani ma poche certezze e dove la Cina ha fatto di Yao Ming un semidio. Pensare che proprio oggi Danilo Gallinari, che magari sarà il più forte italiano di sempre nello sport dei canestri, compie 20 anni. Carlo Genta, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto temi politici, economici, dibattiti sui diritti intorno alle Olimpiadi, ma le Olimpiadi sono chiaramente soprattutto sport. E proprio con il piede giusto è allora partita l'avventura dell'espedizione azzurra grazie al successo della Nazionale Olimpica di Calcio nella gara d'esordio contro l'Honduras a Quijandao. 3-0 per gli azzurri di Casiraghi grazie ad una prodezza di Giovinco, uno splendido sinistro a battere il portiere Hernandez, poi due calci di rigore, uno di Giuseppe Rossi e uno del centravanti del Cagliari Acqua Fresca. Per quanto riguarda gli honduregni hanno fallito anche un calcio di rigore, ma insomma squadra che è apparsa poca cosa rispetto agli azzurri, che pure hanno avuto qualche difficoltà nel ingranare la marcia giusta nella parte iniziale della partita. Poi tutto facile per gli azzurri, 3-0, primo successo in camerato e che fa morale anche viste le difficoltà delle altre formazioni, ad esempio il successo per 2-1 dell'Argentina sulla Costa d'Avorio nel segno di Messi e il faticato 1-0 del Brasile sul Belgio in ombra Pato e Ronaldinho. Insomma, si comincia a parlare di sport, oggi è il giorno della grande festa inaugurale, da domani gare su tutti i campi, l'Olimpiade sta scattando e allora da Pechino buona Olimpiade a tutti.